GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro Nordio alla cerimonia del 2 giugno a Re di Puglia. L'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi, come la giustizia senza la spada sarebbe umiliata e impotente, sono le parole del rappresentante del governo, che ha ricordato anche Gorizia e Nova Gorizia, capitale della cultura europea. A Trieste, per la festa della Repubblica, questa mattina è stato appeso un enorme tricolore sul palazzo, sede dell'amministrazione regionale. Un tricolore che dal tetto arriva fino al suolo e copre un terzo dell'edificio, che ha fatto da scenografia al solenne alzabandiera in Piazza Unità. Paola Daldin, combattente durante la Resistenza e medaglia d'oro al valor militare, riceverà oggi anche l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica. Sentiremo la sua intervista, in cui ricorda anche il referendum del 2 giugno del 1946. E in prognosi riservata, un uomo colpito a martellate in testa durante una rissa scoppiata all'alba a Lignano, a 200 metri circa da una discoteca che a quell'ora aveva già chiuso al pubblico. Sul caso indagano i carabinieri. Domenica e lunedì si voterà al referendum. Nel nostro GR la scheda con la presentazione del primo dei 5 quesiti referendari, che riguarda i licenziamenti illegittimi nelle grandi aziende. Il dialogo interreligioso per la pace a Trieste si mantiene vivo e viene continuamente alimentato. L'Università di Trieste ha organizzato per domani una tavola rotonda alla quale parteciperanno il Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, e il Presidente della Comunità Islamica, Akram Omar. A San Vito al Tagliamento si inaugura nel pomeriggio il Meeting Atletica 2000 con partecipanti di livello internazionale. Buongiorno e buona festa della Repubblica ancora da Daniele Lettig e Nada Cioca, Re di Puglia, la celebrazione principale in regione in occasione del 2 giugno con il ministro alla giustizia Carlo Nordio. Sentiamo. Anche quest'anno il cuore delle manifestazioni in Friuli Venezia Giulia per il 2 giugno è stato al Re di Puglia, il sacrario dedicato alle vittime della Prima Guerra Mondiale. Sono passati 79 anni dal primo voto a suffragio universale dello Stato italiano. Il risultato fu un'assemblea costituente, la scelta della Repubblica in luogo della monarchia. A Re di Puglia ha rappresentato il governo il ministro della giustizia Carlo Nordio. L'ex magistrato veneto, in qualità di massima autorità, ha deposto la corona di alloro. Nel suo discorso ha ricordato Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura, e Paola Daldin, la medaglia d'oro al valor militare per il suo ruolo nella Resistenza. Daldin, classe 1923, seduta in prima fila nell'area riservata alle autorità, ha letto la motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa al milite ignoto. Patria, onore e dovere sono state le tre parole chiave del ministro Nordio nel suo discorso. L'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi, come la giustizia, che senza la spada sarebbe umiliata e impotente. Anche la libertà è fondata sulla forza militare, ha affermato Nordio. Alla cerimonia hanno partecipato parlamentari, membri della giunta del consiglio regionale e diversi sindaci, tra cui l'udinese Alberto Felice De Toni. Qualche militare ha avuto bisogno di assistenza sanitaria per malori provocati dal caldo e dalle divise pesanti. Un carabiniere è stato portato via, cosciente, in barella. Le sue condizioni non paiono gravi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un enorme tricolore è stato appeso sul palazzo sede della regione Friuli Venezia Giulia in Piazza Unità questa mattina con l'aiuto dei vigili del fuoco, una bandiera che va dal tetto fino al suolo quasi e copre un terzo della facciata del palazzo del Lloyd per omaggiare la festa della Repubblica e accompagnare il solenne alzabandiera nella piazza. Il tricolore così issato ha fatto appunto da scenografia all'alzabandiera alla presenza del sindaco di piazza. Nel pomeriggio alle 17:30 un corteo a cui parteciperanno rappresentanti di tutte le forze armate sfilerà dal piazzale della Capitaneria di Porto fino a Piazza Unità, dove avrà luogo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e a seguire la Maina Bandiera. Alle 19 il Conservatorio Tartini proporrà un concerto aperto a tutta la cittadinanza. In occasione della festa della Repubblica, i prefetti consegnano le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, come decretate dal Presidente della Repubblica. In totale ci sono 61 nostri corregionali che saranno insigniti dei titoli di ufficiale, cavaliere del lavoro e commendatore. La cerimonia a Pordenone si è conclusa poco fa nell'ex convento di San Francesco. Tra i commendatori, Teresa Tassanviol, per 47 anni, a servizio del liceo Leopardi Maiorana. Sentiamo. 47 anni nella scuola è un riconoscimento che è anche un riconoscimento alla scuola pordenonese. Certo, accolgo con grande gratitudine e anche con un po' di imbarazzo, grande orgoglio questa onorificenza, proprio perché considero che sia un riconoscimento il valore della scuola e delle tantissime persone che nella scuola ogni giorno lavorano con impegno, con serietà, con professionalità, anche con generosità. C'è qualche ricordo importante di questi 47 anni? Una serie infinita di ricordi, li conservo tutti con grande amore. Io mi considero una persona molto fortunata, privilegiata per aver potuto fare con passione quello che mi piaceva, per cui mi ero preparata e per cui ho continuato a prepararmi ogni giorno nel mio servizio. Dove era cominciato il suo percorso? Prima da insegnante e poi da dirigente? Era cominciato a 18 anni, quasi per caso, con una supplenza nelle scuole elementari di Aviano, e da lì è partito tutto, insomma un lungo percorso da insegnante svolto tutto all'interno del comprensivo delle scuole del comune di Aviano, e poi da dirigente invece sono sbarcata in città e ho avuto la direzione del centro storico prima e del liceo Lomaglio. E poi ho avuto un incarico anche all'interno dell'Associazione Nazionale Prestiti. Ah sì, questa è una cosa fondamentale che ha accompagnato il mio percorso professionale. Senza l'Associazione Nazionale Prestiti forse questa onorificenza non sarebbe arrivata. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia Udine le cerimonie si svolgeranno nel pomeriggio. A Udine, tra gli insigniti, ci sarà anche la medaglia d'oro al valor militare Paola Deldin, combattente durante la Resistenza, che riceverà la massima onorificenza, ovvero quella di cavaliere di Gran Croce. Nell'intervista di Biagio Ingenito, Paola Deldin ha parlato del 2 giugno del 1946, quando gli italiani e per la prima volta le italiane furono chiamate a esprimersi sulla forma di governo che volevano per l'Italia. Italia, liberata dal nazifascismo. Quel giorno c'erano le file ai seggi, eppure ora, nonostante la situazione non sia rosea, la gente non va a votare. Perché è troppo abituata a piangersi addosso e a considerare che deve ricevere tutto per opera dello Spirito Santo e non per darsi da fare. Se avessimo fatto così noi, a quest'ora sarebbero tutti quanti, ecco, abbiamo gli immigrati che vengono, noi saremo ancora peggio perché non avremo più neanche quella forza, che possono, quella freschezza di energie che possono avere i popoli nuovi. La nostra libertà è andare a votare e riflettere, non votare la prima cosa che passa per la testa o quello che viene raccontata, ma vedere quello che è stato il passato, l'esperienza del passato, in genere adesso sa leggere. Perché questo è uno dei principi che diciamo, che tutti siano istruiti. Erano sufficienti, tante volte valeva di più il buon senso che avevano i vecchi che non quell'istruzione fasulla che hanno magari da rotocalco, così, non per dispensare qualche tipo di stampa, ma perché ci vuole una cultura, un ragionamento del cervello, che non è soltanto da imparare a leggere e scrivere, ma che il cervello funzioni e ragioni, ed è l'esperienza di vita, la fatica che si deve fare. Non è da avere tutto gratuito che ci insegna come ci deve comportare, ma è lottare per l'esistenza, no? Come abbiamo dovuto fare noi. Biagio Ingenito, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la cronaca. A Lignano, in una rissa scoppiata non lontano da una discoteca, un uomo è stato colpito a martellate. L'uomo è stato elitrasportato a Udine. La prognosi è riservata. A chiamare il 112 e i carabinieri, il gestore del locale, che a quell'ora era già chiuso al pubblico. Indagini dei carabinieri. Sull'asfalto ci sono ancora due grosse chiazze di sangue, distanziate l'una dall'altra. Siamo a 200 metri da una discoteca fuori dall'abitato di Lignano Sabbiadoro. Il locale notturno aveva chiuso alle 4:30, l'aggressione si è verificata intorno alle 5 del mattino. Dalle prime ricostruzioni pare che un ragazzo georgiano, operaio di 20 anni, sia stato colpito da un martello, riportando un importante trauma cranico. La centrale operativa regionale della SORES ha inviato un'ambulanza e un elicottero di soccorso. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto prima di trasferirlo in volo all'ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso. C'era ancora tanta gente quando sono arrivati i sanitari e hanno trovato il ferito a terra. I carabinieri sono giunti sul posto chiamati dallo stesso proprietario della discoteca. Alcuni clienti l'avevano avvisato di una discussione sulla strada che porta allo stadio e al parco divertimenti acquatico, nei pressi dell'idrovola. Il ragazzo è stato oggetto di percosse. Ancora non è chiaro se da parte di una o più persone. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di La Tisana. Per chiarire i contorni della vicenda sarà determinante raccogliere la testimonianza dell'aggredito, con il quale i militari dell'arma attendono di parlare. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo aver partecipato al festival E Storia di Gorizia, la traduttrice e scrittrice ucraina Elena Kostiukovic è stata questa mattina ospite della libreria Ubik di Trieste, dove ha presentato il suo libro Kiev, una fortezza sopra l'abisso. Le abbiamo chiesto un commento sulla situazione del conflitto nel suo paese d'origine e sui possibili sviluppi in vista della pace, partendo dall'attacco ucraino di ieri alle basi aeree russe. È andato in porto finalmente un piano che la parte ucraina ha preparato probabilmente da tanto tempo. Quindi è un giorno grande per l'orgoglio ucraino. Io non so quali saranno le conseguenze immediate dei russi, che saranno sicuramente molto agguerriti e imbestialiti di quest'altro colpo, il più doloroso che hanno subito nel corso di tutta questa guerra. La probabilità per il futuro strategico, diciamo, di una trattativa che possa portare entro breve una qualche fine della guerra, insomma la soluzione di pace, questo non lo vedo nel prossimo futuro, ma proprio per niente. La colpa è più che altro del presidente americano Trump, il quale come mediatore è pessimo, sta creando un clima di probabilità di tutto, sanzioni sì, sanzioni no, vengo, non vengo, arrivo, l'amico Vladimir, eccetera, che ha praticamente reso irresponsabile qualsiasi promessa e qualsiasi piano in questo periodo che possa riguardare il futuro immediato. L'8 e il 9 giugno si vota per 5 referendum, 4 in materia di lavoro e 1 sui requisiti per la cittadinanza. Sentiamo i dettagli del quesito referendario numero 1 che riguarda i licenziamenti illegittimi nelle grandi aziende. La scheda è del collega Livio Coppola. Il primo quesito referendario con la scheda di colore verde riguarda la normativa sui licenziamenti illegittimi nelle grandi aziende. Nel 2015 la riforma del Jobs Act ha introdotto l'istituzione dei contratti a tutele crescenti, modificando lo statuto dei lavoratori e cancellando l'obbligo di reintegra previsto dall'articolo 18 per i dipendenti che dimostrano davanti al giudice di essere stati licenziati senza giusta causa. In caso di vittoria del sì, viene dunque ripristinata per diversi casi di licenziamento illegittimo, in primis quelli collettivi, la reintegra obbligatoria sul posto di lavoro nelle imprese con più di 15 addetti. Con la vittoria del no, resta invece l'attuale normativa, che in caso di licenziamento dichiarato privo di giusta causa dal tribunale, prevede per chi è stato assunto dal 2015 in poi un'indennità pari a 2 mensilità per ogni anno lavorato, per un minimo complessivo non inferiore a 6 mensilità e un massimo non superiore a 36. Va ricordato che il risultato del referendum è valido solo se c'è la partecipazione almeno del 50% più uno degli aventi diritto al voto. A 6 anni dal documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, l'Università di Trieste organizza domani una tavola rotonda aperta alla cittadinanza con il vescovo di Trieste Enrico Trevisi e il presidente della comunità islamica locale Akram Omar. L'incontro si svolgerà alle 17.30 nell'aula Bachelet dell'Ateneo. L'evento è proposto da Fulvio Longato, già docente di storia della filosofia dell'Università di Trieste, e nasce con l'intento di valorizzare il dialogo interreligioso come via per rafforzare la coesione sociale e promuovere una cittadinanza inclusiva fondata sul rispetto, sull'ascolto e sulla responsabilità condivisa. Sarà anche un'occasione per riflettere su alcune tra le sfide più urgenti del nostro tempo: la tutela della dignità umana, l'accoglienza delle persone rifugiate, il superamento di ogni forma di esclusione, la libertà religiosa e il contrasto a ogni deriva fondamentalista. 12.43, il meteo, il tempo è cielo e sereno sulla costa, poco nuvoloso coperto su pianura e monti, a Trieste 25 gradi, Gorizia 27, Pordenone, Udine 24 gradi e mezzo, a Tolmezzo 23, Tarvisio 22, Forni di Sopra 20 gradi e mezzo, Sappada 18, Piancavallo 16, Sull'Ussari 15 gradi, sullo Zoncolan 14, a Lignano e Grado 25 gradi e mezzo. Queste le previsioni. Oggi pomeriggio sui monti cielo da variabile a nuvoloso, con probabili rovesci sparsi e qualche temporale che in seguito potrà interessare anche le alte zone dell'alta pianura. Anche zone dell'alta pianura. Sulla costa cielo poco nuvoloso. Domani cielo da poco nuvoloso lungo la costa, dove il tempo sarà più stabile, soffierà vento dal mare moderato, a nuvoloso sui monti, dove saranno più probabili rovesci sparsi e locali temporali. E Trieste è invasa dai turisti e dai croceristi in questo ponte del 2 giugno. 70 anni fa, esattamente il 2 giugno del 1955, il castello di Miramare tornava ad aprire al pubblico dopo il periodo in cui era stato prima residenza estiva del Duca d'Aosta e quindi una delle sedi del governo militare alleato. Il castello di Massimiliano e Carlotta nel corso di questo tempo è cambiato poco, è stato valorizzato e oggi attira turisti da tutta Europa, scontato nella giornata di sole il pienone per il ponte del 2 giugno, complice anche l'ingresso gratuito. Tanti polacchi, olandesi, ovviamente austriaci, ma anche italiani, principalmente da Emilia-Romagna e Veneto. 3.760 gli ingressi nella giornata di domenica, a cui si aggiungono le oltre 7.000 presenze nel parco, probabile che oggi si vada anche oltre. Molte presenze anche all'immaginario scientifico, altro museo che per l'occasione ha spalancato le porte ai visitatori. Un'apertura speciale per spiegare la scienza a curiosi di ogni età. In città invece la solita caccia al parcheggio, incubo per i pochi residenti in giro, ma per i turisti che abbiamo sentito non c'è traccia di overtourism. Siamo stati a Venezia e Bologna, ci dice una coppia di Breda, Olanda, qui in confronto è deserto. Trieste, Andrea Saula, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Ape Car, un'intuizione del Made in Italy che ha accompagnato quotidianamente generazioni di artigiani e agricoltori. A Pantianico è stato organizzato un raduno al quale partecipano i proprietari del versatilissimo mezzo provenienti da diversi paesi europei. Chiamateli apisti. La loro passione è per il mezzo a tre o quattro ruote nato nel secondo dopoguerra per essere utile alla ricostruzione del paese, ma soprattutto agli artigiani che dovevano trasportare i loro prodotti nei mercati o dove la popolazione non ancora motorizzata poteva recarsi per gli acquisti. E a Pantianicco, frazione di Mereto di Tomba, 25 anni fa, è nato il fan club dall'idea di quattro amici. Luca Bertolissi è il presidente dell'Ape Fans Club di Pantianicco. Era impostato come... porti via le tavole, costruisci una festa in mezzo ai campi o in giro per le sagre. Poi è diventato sì, un motivo di festa alla fine, oltre ad usarlo in campagna, siccome come tanti la stanno usando ancora. No. Vengo dalla Svizzera, sono un fan dell'ape. Where are you from? Norimberga. Da Norimberga, ho molti amici fra gli apisti. Mezzo versatile, a cassone aperto, ribaltabile, utile nei lavori edili. O chiuso per preservare la merce dalle intemperie, ma anche per il trasporto di persone. Fabiano Cesarini, Ape Fans Club, Pantianicco. Sono 80 mezzi. Abbiamo ape di tutta Italia e anche dall'estero. Abbiamo un ragazzo venuto dalla Svizzera, altri due da sopra Monaco, un signore arrivato da Torino. Sia in Svizzera che il signore da Torino venuti giù via moto. Sono venuti marcianti sul mezzo. Ma l'ape è per passione o anche per lavoro? Allora, l'ape è partita per essere un veicolo da lavoro, ma i fans club e i gruppi apistici non la usano per lavoro o la usano per piccole attività personali, ma questa è solo una grande passione. Pantianicco, Mereto di Tomba, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arrivano da 23 paesi gli atleti che parteciperanno oggi alla 19esima edizione dell'Atletica 2000 Meeting di San Vito al Tagliamento, che inizierà alle 16 a Prodolone e vedrà impegnati concorrenti delle categorie assolute, master, under 14 e under 16 e anche atleti paralimpici. Abbiamo chiesto a Matteo Tonutti, direttore sportivo della società Atletica 2000 di Codroipo, che organizza il meeting, di presentarci le gare più interessanti e gli atleti più attesi. Avremo atleti di ben 22 nazioni nelle gare di velocità 100, 400, mezzo fondo 800, 5000, poi salti, salto in alto, salto con l'asta e abbiamo il lancio del disco, nonché il lancio del peso con due atlete non vedenti. Quali sono gli atleti più attesi? Sicuramente avremo la sfida tra Adam Gemili, ex campione europeo dei 200, che questo giro qua farà i 100 metri, con Afrifa, è un olandese che è accreditato di 10.13, 9.97 ad Angemili, un bellissimo salto in alto con 1.91 della Christy Low, direi che anche il lancio del disco con Casas, Diego Casas, che ha 65 metri, e il nostro friulano Saccomano, sarà una bella sfida. È prevista anche la partecipazione di diversi atleti appunto della nostra regione. Quali sono i più importanti e anche loro, che occasione è per loro? Sicuramente di San Vito a Tagliamento, e così ringrazio anche la Libertà Sanvitese che assieme a Atletica 2000 organizza il meeting. Ci sarà la Giorgia Bellinazzi nei 100 metri, che è una delle migliori interpreti italiane, e la nostra Margherita Cengerle, che è una delle migliori allieve in circolazione in Italia, accreditata con 12.04 sui 100. Si affronteranno insieme a una forte portoghese e un inglese abbastanza agguerrita. E si chiude qui questo giornale radio redatto e condotto da Daniele Letti, Gennada Cioc, con la collaborazione tecnica di Federico Comar. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Il prossimo giornale radio alle 18.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.